vede ancora fede. E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Abbiamo sentito un brano del Vangelo secondo Marco significativo: la nave in tempesta, la tranquillità del Signore, la paura dei discepoli. E adesso una meditazione del Santo Padre, sentite in sottofondo la pioggia. Venuta la sera, così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vie, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Adesso il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro, annuncia la benedizione Urbi et Orbi con annessa indulgenza plenaria mediante apposita moneta. Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa a tutti coloro che in questo momento ricevono la benedizione eucaristica, sia attraverso le diverse tecnologie di comunicazione, sia unendosi anche solo spiritualmente con il desiderio al presente rito di benedizione. Ed ora la benedizione, che sarà ovviamente in latino. campane della Basilica che accompagnano questo momento così solenne per la Chiesa e per tutti. Il Papa sta uscendo con in mano il Santissimo Sacramento, sta uscendo verso il sagrato della Basilica di San Pietro, davanti alla piazza vuota, lo ricordiamo ancora una volta, per impartire la benedizione Urbi et Orbi. Ha alzato l'Altissimo in alto, lo sta mostrando ad una piazza vuota, lo sta mostrando all'intera umanità, alla Chiesa universale.